Benvenute alla puntata di questo martedì di C'è Trip per Gatte e più spazi per femministe lesbiche, amiche, amanti, amazzoni, poete e guerriere. La trasmissione di oggi è dedicata alle città delle donne nel Medioevo. Vi confesso che è un argomento che ho già trattato qualche anno fa in un'altra trasmissione, di cui oggi vi ripropongo dei brani. Allora l'idea era nata da alcuni spunti e suggestioni che mi avevano dato delle amiche e compagne. Oggi ne voglio riparlare perché penso che sia fondamentale lavorare in un'ottica di costruzione e apertura di spazi di libertà e di vita per le donne e attingere alla storia, anche quella più dimenticata e sconosciuta, che ci serve per prendere forza da coloro che sono vissute prima di noi e prima di noi hanno sperimentato e realizzato progetti di autonomia per le donne e così tracciare una strada per noi e per quelle che verranno. Come dice Mary Daly, dobbiamo accendere il nostro fuoco, una volta acceso, comunicarlo alle altre. Insieme diventeremo un vulcano. E come dice Felice Nusselheim, siamo la forma vivente dei pensieri che hanno avuto le donne vissute prima di noi e quelle che verranno dopo di noi saranno la realizzazione dei nostri pensieri. Irmes, una cara amica e compagna tedesca, mi parlò un giorno delle beghine, e di un beghinaggio che probabilmente era nella zona in cui stavamo passeggiando. Su un progetto di installazione dedicata alle beghine ha lavorato la fotografa milanese Silvia Truppi, a cui abbiamo dedicato una mostra l'una e le altre 10 anni fa, nel 2006. Così ho iniziato a approfondire e oggi vi racconterò qualcosa sulle beghine, queste donne che rifiutavano il matrimonio, andavano a vivere fra di loro e facevano opere di bene verso altre donne. Siamo nel Medioevo. Anche Zed, una lesbica che vive in una terra di donne in Francia, che si chiama Terra, mi ha parlato delle donne nel Medioevo e della caccia alle streghe. Ricordiamolo, quel periodo buio della nostra storia in cui sono state uccise, bruciate fra le 9 e 12 milioni di donne. Oggi vi racconterò una parte quindi di questa storia, che è anche una parte della mia e della nostra storia collettiva, una storia rimossa di varie donne, scrittrici, scienziate e musiciste, di donne che vivevano fra loro. Vi parlerò di alcuni esperimenti reali, mitici, letterari, di costruzione di città delle donne, o città delle dame, citando il titolo del poema di Christine de Pizan, perché di città delle donne nel Medioevo ce ne sono state più di una. Stupite di questa musica, questa sarà una delle colonne sonore della trasmissione di oggi. La compositrice è Hildegard von Bingen, vissuta nell'undicesimo secolo d.C. Il Medioevo si divide in due parti e non in tre come vuole la storiografia. La data che segna il passaggio dal primo al secondo Medioevo è il 1231, data della creazione dell'Inquisizione, anche detta Santa Inquisizione. Processi per stregoneria, persecuzioni contro le donne libere autonome e libere pensatrici ce n'erano comunque già stati sin dal IX secolo, cioè dall'epoca di Carlo Magno, che per la prima volta aveva dichiarato la stregoneria un crimine contro lo Stato. Comunque la data del 1231 segna l'inizio delle grandi persecuzioni contro le streghe, anzi per l'esattezza prima contro gli eretici e le eretiche, nel senso che le prime donne che verranno condannate e messe a rogo saranno per eresia e poi successivamente sarà creato il concetto di stregoneria. In tre secoli sono state bruciate 9 milioni di donne. Le cifre vanno da addirittura dai 12 milioni a chi dice solo 300.000. Comunque possiamo pensare che in alcuni villaggi sono morte sul rogo o per le torture, perché c'era chi non arrivava a rogo, o per suicidio, per chi ci riusciva. Sono morte dal 50 al 100% delle donne, insomma, per cui interi villaggi cui la popolazione femminile è stata decimata. Questo è il vero Medioevo buio, che arriva in realtà fino alla metà del XVII secolo, cioè del 1600, ovvero in pieno Rinascimento, ma non è che le celsementi del Rinascimento hanno mai pensato di dire qualcosa contro questa pratica assurda e brutale. E comunque l'ultima donna ad essere bruciata per stregoneria è stata nel 1775, quindi qualche giorno prima della Rivoluzione francese, insomma. Ma non è di questo Medioevo di fuoco e ferro che voglio parlare in questa trasmissione, è invece del Medioevo dell'assenza di poteri capillari, del Medioevo della scarsità di uomini morti in guerra o partiti per le crociate, del Medioevo della separazione tra i luoghi di vita delle donne e quelli degli uomini, insomma di quel Medioevo in cui vari sono stati gli spazi di libertà e di incontro delle donne, a tal punto da essere ideata una utopia chiamata la città delle dame, a tal punto da essere state costruite delle vere città di donne. Un'amica che ringrazio, grazie Tamara, abbiamo fatto delle interviste perché insomma un'idea era chissà che cosa le donne di oggi pensano e sanno di come vivevano le donne del Medioevo e quindi sentiamo un po' di risposte. Come ti immagini che vivessero le donne del Medioevo? Suonavano il mandolino. Facevano tanta musica? Sì, dalla mattina alla sera. Grazie. Tu dici che suonavano in liuto invece? Sì, sì, secondo me sì. Perché pensi questo? Boh, sta nel castello il liuto, ci sta. Ci sta bene? Sì, sì, benissimo. Secondo te si incontravano fra di loro le donne? E assemblavano i veleni. E che ci facevano con i veleni? Le facevano bere. A chi? A chi li stava un po'... Ciao, come vivevano Ciao. Le donne nel Medioevo? Di certo non bene, spesso relegate in casa, le uscite molto limitate, anche perché la donna era vista come fonte di tentazione, no? Da parte dell'uomo, per cui anche per quanto riguarda l'abbigliamento risultava abbastanza insomma costretta a quella che era la concezione del tempo influenzata dall'ideale cristiano. E poi c'erano tutte quelle donne che cercavano un attimo di ribellarsi, di diciamo di uscire dagli schemi, che venivano presto additate come streghe, no? E quindi arse al rogo. Arse al rogo, come la concezione cristiana voleva per tutte coloro che avrebbero potuto mettere a rischio, no? Quindi, il tempo. Meglio adesso. Sì, sì, sì. Grandi okay. progressi. Vai donna, vai. Grazie. Ciao, e secondo te come vivevano le donne nel Medioevo? Una chiavica. E perché? Perché erano poco libere, non erano libere di decidere della loro esistenza. Come immaginate le donne nel Medioevo? Ciao, secondo te, cioè, come ti immagini le donne nel Medioevo? Belle, per no? Ciao, ciao. Oh, penso simpatiche, semplicissime, insomma, la grande lavoratrice, un po' come nei nostri tempi, ecco. Però sono un po' fronzoli per la testa, Nel XVIII secolo troviamo la principessa Vlasta, che è stata una capitana di un esercito di donne e che hanno creato una città di donne. Di Vlasta parleremo oggi. Successivamente, nel IX secolo, all'epoca di Carlo Magno, si trovano tracce di centinaia di donne che giravano per i villaggi a cavallo e le donne dei villaggi fuggivano con loro. C'è da notare che già nel VI secolo abbiamo tracce di donne che a Roma si riunivano in nome di Diana e che giravano a cavallo nella notte. Il cavallo, questa cavalcatura reale, verrà trasformata poi nella cavalcatura simbolica della scopa per sminuire il potere delle donne e per relegarle nella sfera domestica. Nell'undicesimo secolo, l'epoca della prima crociata, la Chiesa si trova davanti alla sua impotenza, ancora non si era affermata come potere spirituale né come potere temporale. Il celibato dei preti è del XII secolo e i sacramenti verranno definiti solo nel XVI secolo. Vengono così inventate le crociate allo scopo di unire i vari poteri che, per usare termini moderni, chiameremmo le forze armate, la Chiesa e lo Stato. Con le crociate, gli uomini in guerra, le donne vivono un'epoca di grande libertà. In questo periodo nascono le beghine, che esisteranno per 4 secoli. Nella città di Colonia, per esempio, c'era una comunità di 2000 beghine che facevano tutti i mestieri e che erano cristiane a modo loro. Sempre intorno all'anno 1000 sappiamo che a Salerno ha vissuto e insegnato Trotula, una delle più grandi fra gli studiosi di medicina di tutti i tempi. Per me è stata una vera emozione scoprire della sua esistenza, ma di lei vi parlerò in un'altra trasmissione, se sarà possibile. Nel XII secolo troviamo Eleonora d'Aquitania, regina di Francia e poi d'Inghilterra. Alla sua corte vissero molti trovatori e trovatore, fra cui per esempio la poetessa scrittrice Maria di Francia. Fra il XII e il XIV secolo cosa sappiamo? Sappiamo che a quest'epoca la maggior parte delle donne erano contadine, ma per esempio potevano chiedere al feudatario il permesso di recarsi in pellegrinaggio, ed i pellegrinaggi duravano mesi, un anno, e quindi abbiamo una grande mobilità e possibilità di conoscenza per le donne. Donne del popolo andavano in pellegrinaggio, per esempio sappiamo che la madre di Giovanna d'Arco vi andò. Poi dove troviamo le donne? Troviamo le donne nei mercati, nelle fiere. Le mirisse, guaritrici, terapeute, erboriste, levatrici, sagge. E che altro sappiamo? Ah, per esempio, questa è carina, nei Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer c'è una donna che si vanta pubblicamente di quanti orgasmi riesce a raggiungere. Il matrimonio in quest'epoca non esisteva, così come è concepito oggi dalla Chiesa, mentre sappiamo che esisteva sicuramente nell'Italia centrale il divorzio. Le donne vivevano nell'indipendenza economica, praticavano tutti i mestieri, le muratore, le docenti, le mediche, come vediamo per esempio da alcune miniature dell'opera di Boccaccio De Claris Mulieribus, ed avevano creato delle corporazioni femminili di mestieri. Poi piano piano i vari mestieri saranno loro impediti. Come dicevo, nel 1231 venne creata l'Inquisizione. Le crociate erano fallite, la gente non ne poteva più. Per dare voce e sollievo allo sconforto popolare, iniziarono a nascere in tutta Europa nuove storie sulla vita di Gesù, nuove interpretazioni dei testi religiosi, dottrine cristiane che non riconoscevano le gerarchie ecclesiastiche. Per esempio, è importante da questo punto di vista l'opera di Margherita de Porete, una beghina, che nello Specchio delle anime semplici sostiene che l'amore divino nel mondo è così grande che ci guida e ci assiste senza bisogno che facciamo sacrifici o che preghiamo. Margherita de Porete sarà convocata dall'Inquisizione ed ebbe diritto alla parola, tanto era illustre e riconosciuta. Si difese e riuscì a scampare il primo processo, ma il suo libro venne bruciato, anche se poi ricominciò a circolare grazie al lavoro delle amanuensi sue compagne beghine, e venne letto e ritenuto un testo degno da molti religiosi e uomini di chiesa. Quando Margherita si recò a Parigi per fare propaganda, venne nuovamente catturata dall'Inquisizione. Il suo processo durò 2 anni. Era molto famosa e seguita ed avevano quindi difficoltà a giustificare la sua condanna, ma venne comunque condannata e bruciata nel 1310 come eretica. Un altro accenno, perché poi ne parleremo più avanti, nel XV secolo Christine de Pizan È una donna non di famiglia nobile ma istruita che insegna e che vive della sua penna. È lei che ha scritto La città delle dame, da cui questa trasmissione prende il nome nel 1405. Un'utopia femminile. Da alcune è definita una delle prime femministe della storia. Torniamo all'VIII secolo. Siamo in terra ceca, nella zona dell'attuale città di Praga, sulle sponde del fiume Moldava. Andiamo a vedere chi era Vlasta. Durante la vita della saggia regina Libuse, le donne ceche avevano goduto di una posizione privilegiata, ma dopo la sua morte la loro potenza declinò. Rendendosi conto del pericolo, Vlasta, la più influente tra loro, chiamò le altre donne per discutere della cosa. 600 donne condussero i cavalli fuori dalle stalle. 600 donne e ragazze varcarono il fiume Moldava e si stabilirono sulla sponda opposta. E lì, proprio davanti al Visehrad, eressero una fortezza che venne chiamata il Divcirad, Castello delle Vergini. Secondo altre fonti, la città delle donne si chiamava invece Devin e Deva, fanciulla, è ancora oggi una zona di Praga. E quindi andiamo a vedere come la toponomastica, ovvero la scienza che indaga sui nomi dei luoghi, ci viene in aiuto per appunto dare valore storico a quello a cui noi vogliamo credere. Allora, queste donne cominciarono a darsi delle leggi da sole e non ubbidivano a nessun'altra autorità tranne che a quella di Vlasta. Tutte quante cominciarono a usare le armi ed a procurarsi il cibo cavalcando fieramente attraverso le terre circostanti, tanto che i suoni dei loro corni erano udibili fin dal Visehrad. Donne e ragazze si unirono a loro da tutti i villaggi circostanti e pian piano il loro numero si accrebbe. Dal Visehrad degli uomini osservavano quel gran via vai di donne sulla sponda opposta del fiume e ridevano di fronte a quelle figure di amazzoni a cavallo che cacciavano e si esercitavano nelle armi. All'inizio gli uomini non presero sul serio quindi la rivolta delle donne e si limitarono a catturare le ragazze che sorprendevano da sole nella foresta per stuprarle. Vlasta cominciò a prendere le necessarie contromisure. Divise le sue donne in tre parti, tra le più sagge e le più forti scelse quelle che avrebbero fatto da consigliere e quelle che avrebbero difeso il castello. Alle più belle si mise a insegnare come sedurre gli uomini e adescarli, alla stessa maniera con cui i cacciatori attirano la selvaggina con l'esca. I luoghi circostanti smisero di essere sicuri per gli uomini. I boschi rigurgitavano di trappole e imboscate tese dalle donne. Le più carine venivano usate come esca, appunto, e quando gli uomini si avvicinavano per stuprarle, le altre piombavano dal fondo dei boschi e gli davano addosso. Dovremmo imparare qualcosa da loro. Molti uomini cominciarono a cadere prigionieri o a finire uccisi. Né si riuscirono a sopraffare le donne con le arti dell'inganno, perché nessuna donna ne tradì mai un'altra. Anzi, questa tattica si rivolse spesso contro gli stessi uomini. Capitava che qualche ragazza mandasse un messaggio al proprio fidanzato chiedendogli di aiutarla a scappare dalla fortezza delle donne. Ma quando lo sventurato andava all'appuntamento, decine di donne si gettavano su di lui e lo catturavano. Si udivano le grida degli uomini crudelmente picchiati provenire dall'interno della fortezza delle donne, e molti accettarono di diventare schiavi in cambio della vita. Così i giovani guerrieri ciechi venivano eliminati uno a uno. Gli uomini si riunirono e attraversarono il fiume Moldava, ben decisi a ridurre tutte quelle donne ribelli all'ordine costituito da loro. Erano armati, ma nessuno credeva di dover usare l'arma. Stupidamente continuavano a non prendere sul serio la faccenda e salirono verso il castello delle donne, baldanzosi e pieni di buon umore. Non un rumore veniva dalla fortezza delle donne e gli uomini pensarono che le donne avessero paura. In quel momento all'interno delle mura Vlasta aveva raccolto a sé le donne e stava dicendo: «Se gli uomini vincono saremo di nuovo le loro schiave, meglio morire in battaglia che avere la loro pietà, e quindi battetemi come meglio sapete». E non abbiate misericordia, anche se vi troverete di fronte vostro fratello, vostro padre. E dette queste parole, balzò a cavallo e uscì al galoppo dalla fortezza. Dietro di lei le sue scudiere, Mlada, Svata, Hodka, Radka, Cestava. Tutte le altre guerriere le seguirono al galoppo, ed erano centinaia. Vlasta trafisse con la sua lancia 7 fra i migliori guerrieri, i quali non fecero nemmeno in tempo ad alzare la spada. Le arciere rovesciarono una pioggia di frecce su di loro. In un attimo l'esercito maschile si disperse. Vlasta non diede loro il tempo di ricomporsi. Le donne assalirono gli uomini in groppa ai loro cavalli e cominciarono a mulinare la spada. La battaglia non fu lunga, 300 uomini caddero, 200 furono catturati e portati prigionieri alla fortezza delle donne, gli altri fuggirono nella foresta. Quella notte dalla fortezza delle donne si udirono musica e canti di gioia di donne che celebrarono la loro vittoria. La notizia della sconfitta degli uomini fece il giro di tutta la regione e le donne cieche alzarono orgogliose la testa. Il pensiero di Vlasta dava loro forza e coraggio. Molte donne e ragazze lasciarono le loro case e raggiunsero la fortezza delle donne. Ihr habt mich verarscht, ihr glaubt. allora, dalla prima città di donne del Medioevo organizzata da Vlasta, si badi bene, la prima città di donne del Medioevo, non della storia, perché altre ne sono esistite, per esempio Temiscira, la città delle Amazzoni in Asia Minore, ma questo è il soggetto di un'altra trasmissione. Quindi da Vlasta passiamo all'XI secolo. Girano pochi uomini per l'Europa, come abbiamo visto, le donne non sono costrette a sposarsi, possono anche andare a vivere tra loro, creare dei villaggi autosufficienti, delle vere e proprie città. Questa è la storia delle beghine. Scrive Luisa Muraro, nel Medioevo la libertà è l'invenzione di pratiche che mettono le donne tra pubblico e privato, come per esempio le beghine. Le beghine sono donne che vivono sole o in comunità di donne, che conducono un'esistenza povera e fanno opere di bene. Non sono né laiche né religiose, esse susciteranno sospetto e subiranno tra il 1290 e il 1310 l'accusa di eresia. Nel XII secolo vi era un numero elevato di donne sole, di estrazione sociale medio-bassa, che non potevano sposarsi per penuria di uomini decimati da crociate o da guerre locali, o non volevano sposarsi. Donne che d'altra parte non venivano accettate nei pochi conventi femminili esistenti all'epoca, che comunque erano uno spazio di possibilità delle donne per avere un'educazione, ma questi conventi erano più interessati alle domande provenienti da donne ricche e nobili. E quindi questo movimento spirituale femminile delle beghine si può quindi spiegare sia come una situazione economica e sociale delle donne appartenenti ai ceti più bassi della popolazione, sia perché molte donne rifiutavano il matrimonio per vivere del proprio lavoro, del lavoro delle proprie mani, mangiando e vestendo semplicemente, dedicandosi alle proprie aspirazioni. Molte di queste donne unirono le loro dimore l'una vicino all'altra e da questo nacquero le prime comunità di beghine, i beghinaggi, il primo dei quali comparve nel 1170 circa a Liegi o forse a Nivelles, comunque in Belgio. Si trattava di comunità femminili che vivevano senza voti una vita fondata sullo studio e sul lavoro, comunità che furono luoghi di libertà per le donne. Inoltre molte donne si separarono dal proprio marito per andare a far parte di comunità di beghine, soprattutto in Germania e Belgio, ma anche in Olanda, in Francia e nel nord Italia. La rinuncia al matrimonio, alla proprietà e ad un certo tipo di status sociale fu quindi il frutto di una scelta. Le donne presero l'iniziativa e crearono un importante movimento sociale e anche religioso. Sì, religioso, perché comunque ricordiamoci che il Medioevo è un periodo nel quale l'esperienza religiosa è uno dei tessuti della vita comune, della vita sociale. I beghinaggi divennero quindi delle comunità e a volte anche delle vere e proprie città di donne, forti anche di migliaia di beghine, come a Colonia o a Ghent in Belgio, con più di 2000 donne ciascuno. Ci furono beghinaggi in tutte le città e paesi del Belgio e dell'Olanda, ma anche, come abbiamo appena detto, in Germania, in Francia, nel nord Italia. Ma in Belgio e Olanda, nonostante le vicissitudini storiche, esistono oggigiorno, dopo ben 7 secoli, ancora 11 comunità in Belgio e 2 in Olanda di beghine. A proposito di beghine, vorrei farvi ascoltare un audio di un'intervista fatta a Silvia Truppi, la fotografa milanese deceduta nel 2004, che abbiamo usato appunto in quel periodo per una trasmissione che io sono andata a ritrovare. Le beghine erano donne che insieme organizzavano delle cose importanti. Dunque, ho intitolato la sala alle beghine perché è una parola che nel tempo si è svilita, un po' come il movimento delle preziose nel 1600, erano donne che scrivevano. Le beghine si occupavano di carità, di fare delle opere di bene. Ecco, questo è quanto rispetto, è provocatorio proprio per questo motivo, per recuperare dalla storia ciò che è stato svilito, semplicemente. Il mio lavoro non è un lavoro di recupero storico, perché è un lavoro che si riallaccia alla storia, non la recupera, la continua. E ho preso proprio questo movimento delle beghine, che è stato uno dei tanti movimenti eretici del Medioevo, come quello dei Catari o dei Marcioniti e tanti altri, perché mi è sembrato che avessero come delle analogie con il lavoro che sto facendo, sto conducendo. Ecco, quindi non è un recupero storico quanto un essere collegata anche alla storia come donna, un dare continuità a ciò che è già stato fatto. Lo svilimento è sul lavoro delle donne, per esempio le preziose, no? Le beghine hanno fatto delle cose nel passato, cose molto importanti, però cosa abbiamo noi? Semplicemente quello che è stato tramandato, ma è stato tramandato con una connotazione negativa. Infatti, dire a una donna che è una beghina è una cosa mortificante, come dire zitella, ma le zitelle erano altrettante donne che si riunivano insieme, no? Si riunivano, facevano dei cenacoli e facevano delle cose importantissime, interessantissime nel sociale. Io torno all'origine, cioè il fatto che è un fatto che io sono una donna e loro sono altre donne che hanno vissuto e, avendo vissuto, hanno vissuto come me l'esperienza di vivere il mondo da donna. La prima donna ad essere identificata come beghina fu la mistica Maria Daugné. Tra le beghine troviamo citate anche la grande medichessa Trotula de Ruggero, la scienziata e musicista Hildegarda von Bingen, di cui in questa trasmissione stiamo ascoltando le sue musiche, la teologa Margherita Porete e inoltre anche la maestra spirituale Ade Witsch, che ricordiamo per l'intensa relazione epistolare con un gruppo di amiche che le scrivevano raccontandole le loro inquietudini. Ecco, lei rispondeva. Di Maria Daugné, la prima beghina appunto, sappiamo che all'età di 14 anni era stata sposata, ma in seguito aveva deciso di lasciare il marito per dedicarsi ad una vita apostolica di carità. All'età di 30 anni, nel 1207, si ritirò in una comunità di conversi, ossia di suore e preti laici. Maria morì nel 1213 all'età di 36 anni e non dovette assistere alla crescente persecuzione contro il suo movimento delle beghine, tracciato di eresia. Sto diventando di sé. felicità, sulle donne tutte uguali. Preferisco le cassiere, preferisco quelle vere, con le loro belle facce e con le loro smagliature, sì. E poi chi l'ha detto? E dove sta scritto? È solo di quelle che ti puoi innamorare. La la la la la la la la la la la la la. E facciamo ora un salto di alcuni secoli fino al XV secolo, che si apre nel 1405 con il lavoro di Christine de Pizan, il libro della città delle dame. E andiamo a vedere chi era Christine. È una narratrice medievale che fece della scrittura una vera professione. Considerata una delle prime femministe o protofemministe, scrisse una vera e propria utopia femminile. Nacque a Venezia intorno al 1365, il padre, medico e astrologo, fu cattedratico dell'Ateneo bolognese, nel 1368 venne chiamato alla corte francese di Carlo V. Cristina, che poi divenne Christine, ebbe così modo di attingere una vasta cultura alla ricchissima biblioteca reale del Louvre. A soli 15 anni venne fatta sposare e poi rimasta vedova a 25 anni con la responsabilità dei figli e della madre. Christine si dedicò con forte impegno allo studio e alla scrittura, tanto da produrre e vendere 100 ballate in soli 2 anni. Nei primi tempi lavorò anche come copista e addirittura diresse uno scriptorium di maestri miniatori. Pressante fu in lei la difesa delle donne e la volontà di stabilirne l'autorità attraverso la riscrittura della tradizione. Se già le piste au Dieu d'amour, la lettera al Dio amoroso, Cristina sferra un attacco deciso contro la tradizione androcentrica e misogina, nel periodo del 1401-2 partecipò pubblicamente con 2 opere alla querelle sul Roman de la Rose, accusando con parole di fuoco la triviale tracotanza e misoginia degli autori. Negli anni tra il 1399 e il 1403 Cristina iniziò a comporre l'immane corpus di poesie per cui divenne celebre. Le sue creazioni riscossero notevole successo, così da procurarle illustri committenti. Tra i tanti cito solo la regina Isabella di Baviera, a cui Christine dedicò il lussuoso manoscritto di tutte le sue opere, che è attualmente conservato nella British Library. La cito perché ci sono molte miniature che la ritraggono nell'atto di donare alla regina questo bellissimo libro tutto pieno di stelline e circondato da una corte di donne. Christine diventò una vera e propria professionista della scrittura. Pensiamo per esempio che ci sono dei quadri in cui lei è ritratta nel suo studio mentre lavora, mentre scrive o mentre calligrafa un testo. Curò personalmente la capillare diffusione dei suoi libri, fece ogni sforzo per conquistarsi una salda e durevole fama. La parola asciutta e la forza delle sue righe crearono pagine nuove nella letteratura medievale, impregnata di misoginia e di pregiudizi. E giungiamo così al libro della città delle dame, Le Livre de la Cité des Dames. fondamentale per la strategia di Christine de Pizan di valorizzazione delle donne, scritto nell'inverno tra il 1404 e il 1405 e illustrato da Anastasia, la più accreditata miniaturista di Parigi, a confutazione sia del malevolo Liber Lamentationum Methodi del XIII secolo, sia del boccacciano De Mulieribus Claris. Il provocatorio libro della Città delle Dame consentì a Christine, assistita da ragione, rettitudine e giustizia, di progettare la grandiosa costruzione allegorica di una città fortificata in difesa delle donne virtuose. Espressione di tutta la sua creatività, nella Città delle Dame, Christine creò una vera e propria città di donne, facendo vivere donne sagge, eroiche, malvagie, forti e deboli, di tutte le tradizioni, la tradizione letteraria e mitica, da Diderone a Medea, da Diana a Santa Maria Vergine, intessendo così una narrazione in cui traspare tutto il suo orgoglio di donna illetterata. Inoltre, grazie all'espediente dell'io narrante, Christine è una delle prime donne ad utilizzare la scrittura come mezzo da scagliare contro un patrimonio misogino, un mezzo non solo artistico ma anche eversivo per restituire alla creatività femminile tutto il suo valore. Il poema termina con una esortazione alle lettrici. Quindi, sapendo che il suo libro presenta una definizione positiva della femminilità, possiamo, questa è la domanda, rivendicarla come un'opera femminista? L'applicazione di una tale categoria appare certo anacronistica, poiché il termine femminista, come sappiamo, apparve forse quasi 5 secoli dopo la morte di Christine. È tuttavia indubbio che la sua opera costituisce un momento assai significativo nella storia della riflessione sulla questione delle donne, proprio in ragione del tentativo di restituire alle donne un angolo nello scrigno della memoria e un ruolo all'interno dell'ordine sociale e storico. Ogni movimento sociale e culturale vanta le proprie radici, anche in momenti lontani e nel tempo, e possiamo dire che la Cité des Dames, la Città delle Dame, può a buon diritto essere ritenuta una delle prime riflessioni esplicite da parte di una donna sui secolari pregiudizi misogini che impregnavano non solo la tradizione classica, ma quasi senza soluzione di continuità anche i secoli successivi. E quindi la Cité des Dames de Christine de Pizan può considerarsi non solo un primo passo verso la creazione di un nuovo modo di pensare alle donne, ma uno stimolo rivolto alle donne perché finalmente pensassero a se stesse. Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, acteur, chaîne de garde, cité Mofia, MLM, pour une nouvelle ère. Oye oye, peuple femme, bravo aux armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye oye, peuple femme, bravo aux armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oye oye, peuple femme, sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Et après le mouvement de libération des femmes, PNL, MLF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent, mais les mentalités stables, convaincus. Je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Mafia, tout unir pour le même combat. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing. sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. On vient des peuples femmes. À vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. On vient des peuples femmes. À vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. On vient des peuples femmes. À vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. MLF, nouvelle ère. T'as 200 femmes, meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet, c'est n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien. On assiste à une merde universelle. Je veux pas être complice d'homicide, d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fiens pas en avant vers une nouvelle ère. MLF, une nouvelle ère, me fiens. Prends la relève, de nos jours les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées partout dans le monde. Les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition. Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye. E così termina questa trasmissione. Abbiamo parlato della fortezza delle donne sulle rive del fiume Moldava e di Vlasta. Abbiamo parlato delle beghine e dei beghinaggi, comunità di donne che raggiunsero anche l'entità di vere e proprie città. E abbiamo parlato del livre della Cité des Dames, il libro della città delle donne di Christine de Pizan, un'utopia proto-femminista. E quindi termina qui questa trasmissione dedicata alle città delle dame nel Medioevo, e insomma un po' con l'invito a costruirne altre di città di donne. Is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.